Non c'è posto migliore per essere la domenica sera in questo momento se non qui, vero? Non c'è un posto migliore per te se non essere accanto alla persona che hai e chiedere a Dio di essere trasformato dalla sua parola. Beh, basta ora però, Cioè, proprio ci siamo dati all'abbracciare proprio totale, la comitiva proprio, ci piace. Stasera voglio parlarvi di un tema che io lo definisco essere la soluzione per i divorzi, per i conflitti, per i licenziamenti, per le allergie, per i tumori, per la gastrite, per le malattie psicosomatiche, per le guerre, per il cambiamento climatico, per l'ansia, per la depressione, per gli attacchi di panico, per gli infarti, per l'ictus. La vuoi sapere? Gesù. Ok? Sì, facciamolo un applauso. Lui è la soluzione sempre. Lui è la soluzione sempre. Lui è la nostra soluzione sempre. In qualsiasi stagione stiamo vivendo, in qualsiasi cosa stiamo vivendo, Lui è la soluzione. E sai una cosa? Gesù in tutta la sua vita ha insegnato su una materia fondamentale, lasciandoci un'eredità straordinaria che è sull'attitudine. Stasera vedremo quale attitudine Gesù vuole che noi abbiamo perché Lui l'ha avuta per prima. Per primo, ti piace? Mentre Gesù era sulla terra, non è che proprio sia stato circondato sempre da persone con una buona attitudine. Persino i suoi discepoli, nonostante abbiano dimostrato un'attitudine straordinaria al sacrificio, lasciando tutto e seguendolo, non sempre avevano una buona attitudine. Che cos'è l'attitudine? L'attitudine, per definizione, è una disposizione innata o acquisita. Può essere fisica, può essere psicofisica, può essere psichica, può essere emotiva e rende possibile o facilita lo svolgimento di particolari forme di attività. Nell'attitudine fa parte la postura del corpo o la disposizione mentale verso una certa attività. In definitiva, che cosa è? È il profumo che ci circonda. È vero, ci hai mai pensato? Quando entri in un posto c'è un profumo che viene con te, che entra nel posto con te. E quel profumo può essere buono o può essere una puzza. Però non so come definire esattamente l'attitudine, però so che stai pensando nella tua mente esattamente la distinzione tra una buona attitudine e una cattiva attitudine, tra una persona con una buona attitudine e una persona con una cattiva attitudine. Voglio farvi due esempi al volo. Hai mai fatto un lavoro faticosissimo con una di quelle persone che ti fa passare tutto, che è sempre leggera, che è armoniosa, che è gioiosa? Hai mai fatto un lavoro del genere? Te ne torni a casa spaccato fisicamente, ma alleggerito. È felice di averlo fatto. Hai mai fatto qualcosa di pesante con una persona pesante? Bene, te ne torni a casa che pesi il triplo, che quello che hai fatto è madornale. Questa è l'attitudine. L'attitudine è il profumo o la puzza che ci portiamo. Quando entriamo in una chiesa possiamo sentirci accolti se l'attitudine delle persone che ci sono dentro è accogliente, o possiamo sentirci soli pur essendo in ordine e piena di gente se l'attitudine delle persone che ci sono dentro è di solitudine. Non ha a che fare con un posto. Ha a che fare proprio con il nostro cuore. Tu puoi entrare in una casa tutta caotica, sporca, disorganizzata, ma quando il padrone di casa è in ordine, pulito e in pace, allora tu puoi ricevere quella pace. Tu puoi entrare in un posto straordinario, pulito, ordinato, organizzato, eppure sentire quella tensione, sentire quella pesantezza. Perché? Perché chi ti apre la porta non è esattamente in pace. Bene, questa è l'attitudine. Per specificarlo meglio, voglio dirvi due mie esperienze con l'attitudine. La prima, quanti di voi sanno che io amo fare shopping? stasera posso dire molto su questo argomento perché mio marito non c'è, purtroppo ha la febbre, ci segue in streaming e vi saluta, però io amo fare shopping, ok? Amo fare shopping anche mentalmente, per me lo shopping è uno sport di rilassamento, ok? Come direbbe mio marito, tu vai, provi tutto e non compri niente, è vero, quello è il mio tempo libero, cioè io sono bravissima in questa attività, io entro nei negozi, lentamente giro tutto, vedo tutto, provo tutto e indovina un po', non compro niente. E quindi questo è il mio momento sacro, no? E cerco di ritagliarmelo ogni tanto quando sono molto stressata, mio marito mi chiama e non rispondo, lui sa che sto facendo shopping, poi lo vedrà sulla bancomat, però questi sono altri discorsi familiari. Infatti ora mi ha dato un budget e così il nostro matrimonio funziona molto bene, perché era in crisi, quindi invece ora abbiamo trovato un metodo. Io amo andare in un negozio, no? In questo negozio sono sempre andata da anni, vado in questo negozio, qualche mese fa entro nel mio, vi ricordate, nel mio centro benessere shopping e noto un commesso. Lui mi guarda, io lo guardo, gli dico nella mia testa c'è un pensiero, lui mi rovinerà il mio momento di pace. Perché l'ho visto lì con questa faccia incavolato, proprio nero, che appena prendevo, mi avvicinavo ad una maglia, lui mi guardava per vedere se avevo sgualcito tutto, se la prendevo e alzava, lui veniva dietro e diceva, signora, già che mi chiami signora non va bene, però è vero, sono una signora, però sai, non ho ancora 40 anni, quindi ti senti un po' così. Signora, deve rimettere a posto questo capo, e nella mia testa c'è... tu sei pagato per farlo, no? Questo è proprio quando ti fa uscire il peggio di me. E quest'uomo, questo ragazzo ha fatto uscire il peggio di me più volte. La prima volta arrivavo, mi avvicinavo alle parti, ha provato a dire una cosa. Se sei un uomo e stai ascoltando, se sei un commesso e stai ascoltando, non devi dire mai questo ad una persona. Non c'è la taglia per lei. Sentite le vostre reazioni? Le reazioni delle donne. Perché per noi donne... sentirci dire non c'è la taglia per lei significa proprio che un mostro comincia ad uscire, si chiama il mostro del da domani mi devo mettere a dieta, devo cominciare a fare tutte queste cose, ma siccome questo mostro non può uscire perché sai che la dieta comincia da domani, allora te la prendi con lui e cominci ad odiarlo con tutto te stessa. Allora che ho fatto? Siccome poi ho pensato che Gesù lo ama e lo vuole perdonare, io devo dare grazie a quest'uomo, ho detto forse è meglio che me ne vado, me ne sono andata in altri negozi, non ho comprato niente perché mi aveva proprio rovinato l'animo, me ne vado a casa, torno con l'animo sbagliato. Dopo qualche settimana torno di nuovo in negozio, mi ero dimenticata di questo dettaglio e sbam, di nuovo quel commesso. E dico no, gli voglio dare un'altra possibilità perché ho Gesù nel mio cuore. Allora entro, comincio a provare, in realtà dovevo cambiare una cosa e lui mi fa, signora, questa cosa non si può cambiare, comincio a fare una serie di storie e lì di nuovo quel mostro del mamma mia, spero che Gesù torni oggi, se non sei salvato sarà la mia vendetta. No, tutta questa parte qui che viene fuori così ho detto ora gli rispondo male. E poi ho detto, è meglio che me ne vado. Sapete una cosa? Per mesi non sono più andata in quel negozio. Ho fatto 40 chilometri in più per andare nello stesso negozio, in un altro centro commerciale. Sono tornata a quel negozio. Indovinate un po'? C'era di nuovo lui. C'era di nuovo lui. E allora lì ho detto, sai che faccio? Sai che faccio questa volta? Ora gli chiedo il nome e lo segnalo al servizio clienti perché non è possibile, perché lui sta mandando alla rovina questo negozio, mi l'ho preparata, ero lì, dammi il tuo nome per favore perché devo reclamare quello che... E poi ho detto vabbè me ne vado, me ne sono andata. La quarta volta sono tornata in quel negozio, indovinate un po', non c'era più. Amen, gloria a Dio perché Gesù conosce quello di cui ho bisogno. La quinta volta sono tornata e non c'era più, la sesta volta sono tornata e ho trovato delle commesse gentilissime che persino mi hanno portato i capi nel camerino, mi dicevano ma signora ma come sta bene, magari stavo malissimo, ma quella commessa sapeva come trattarmi, sapeva il bisogno del mio cuore, il cuore di tutte quante noi donne, ti deve dire che stai bene anche se stai male e poi non l'ho comprato, però a lei ho detto, sai, qualche settimana fa sono venuto, ho trovato un tuo collega, mi sono trovata malissimo. E lei ha detto, sì, in realtà sono stati licenziati una ragazza e un ragazzo. Nella mia testa ho pensato, grazie Gesù, quel ragazzo è quello che si è meritato. No, scherzo, però sì, ho elaborato, ho chiesto perdono, sapete bene, no? Però capite bene che la cattiva attitudine ha prodotto in me un cattivo spirito. proprio l'atmosfera che sapevo che avrei trovato già mi rovinava il cuore. Quando tornavo a casa non avevo sentimenti buoni. Questa è la cattiva attitudine. L'ho spiegata? Voglio farvi un esempio di una buona attitudine. La settimana scorsa ero con mia madre in ospedale per un controllo ed eravamo in un reparto non proprio felicissimo, oddio, non che ce ne siano di reparti felicissimi in ospedale, però questo è particolarmente sensibile. Ed eravamo lì nella sala d'attesa e mi sembrava strano che per mezz'ora io stessi parlando con mia madre solamente, perché ora vi spiegherò. Mia madre è multitasking. Lei può parlare con mio padre, con me, con mia sorella, con il cellulare, con Facebook, con Instagram, può servire e può stare pregando tutto nello stesso momento. Lei ha questa capacità incredibile. Quindi per mezz'ora mia madre stava parlando solo con me, wow, bellissimo. Ad un certo punto, da un signora, ma ha sentito il numero che stanno chiamando, è partito un gruppo, cioè tipo 10 donne che parlavano tutte con mia madre. Tutte che gli raccontavano i fatti, che gli dicevano le cose, gli dicevano le cose pesanti, lei rispondeva con leggerezza e quella poi si univa. Anche le persone più distanti hanno cominciato a parlare con lei. E sai che cosa? L'atmosfera in quella sala d'attesa è cambiata. Cioè si stavano per fare delle analisi molto delicate o le persone venivano da un'analisi importante, ma l'atmosfera lì era cambiata. Perché? Grazie al fatto che mia madre aveva un sorriso mentre parlava di cose pesanti, riusciva a dare con una parola, ad alleggerire il momento, a far sentire le persone accolte, a farle sentire capite. Questa è una buona attitudine. Io sono benedetta dall'esempio di mia madre, provo ad essere multitasking come lei, però grazie mamma per il tuo esempio. Se stavamo 10 minuti di più lì, mia madre avrebbe fatto l'appello di salvezza e oggi le avreste visti tutti quanti qui, perché lei in 30 secondi stava facendo un gruppo. Questa è un'attitudine straordinaria. Che bello questo! Questa è la cattiva attitudine e questa è la buona attitudine. Gesù, quando era sulla terra, era circondato a volte da cattive attitudini dei suoi discepoli proprio. Ma sai una cosa? Mentre lui era sulla terra, non ha mai trovato una buona attitudine e quando incontrava una buona attitudine l'ha sempre sottolineata, sempre. Ha creato proprio un esempio sulla buona attitudine che incontrava e ogni volta che incontrava una cattiva attitudine non ha mai evitato di insegnare, si è sempre fermato ad insegnare qualcosa. Vi faccio degli esempi specifici. Ad un certo punto i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, erano lì a combattere, gli hanno fatto una domanda, e questo lo troviamo lasciatemi trovare il verso, in Marco 10. I due fratelli erano lì a combattere dicendo: Gesù, io voglio stare uno a destra e per piacere uno a sinistra. E mentre loro due combattevano tra di loro, gli altri 10 hanno cominciato ad avere uno spirito cattivo. Guarda ora, cattiva attitudine dei due discepoli ha provocato un cattivo spirito in un gruppo intero e Gesù non ha perso l'opportunità per insegnare. Marco 10, verso 43, ma Gesù, chiamateli a sé, disse loro: voi sapete che quelli che sono reputati principi delle nazioni le signoreggiano e che i loro grandi le sottomettono al loro dominio, ma così non sia tra voi. Wow! Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà servo di tutti. Questa è la buona attitudine. Qual è l'attitudine di Gesù? Ascolta ora. Poiché anche il figlio dell'uomo, e lo stava dicendo di se stesso, non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Amen. Incredibile. Gesù, davanti a una cattiva attitudine, ricorda la sua attitudine. E la sua attitudine è lui, il principe di pace, il re dei re, il signore dei signori, l'alfa e l'omega, l'agnello di Dio. Lui si definisce come il non essere venuto sulla terra per servire, non per essere servito, ma per servire tutti. Non per prendere dalle persone, ma per servire tutti. E noi siamo qui oggi per questa attitudine di servizio di Gesù. Perché, ascoltami un attimo, un giorno Gesù è arrivato nella nostra vita e ci ha servito grazia, e ci ha servito perdono, ha preso i nostri peccati, ma ha servito sulla nostra vita vita eterna, speranza, fede, guarigione, miracoli. Tutto questo è successo perché? Perché Gesù è venuto non per essere servito, ma per servire tutti noi. Ti piace questo? Quindi oggi dobbiamo guardare all'attitudine avendo questa bussola, la bussola che ci ricorda che Gesù è venuto per servire. Quindi la migliore delle migliori, delle migliori, delle migliori attitudini che io e tu possiamo avere è questa: servire tutti. E non servire per essere serviti, ma servire per benedire, servire per dare, servire per non avere nulla in cambio. Questa è l'attitudine con cui Gesù ci ha creato un'eredità. Com'è una buona attitudine? Voglio dire al volo tre definizioni di una buona attitudine. La prima: una buona attitudine è problem solving. Che significa problem solving? È l'attitudine di una persona che vede un problema e che non sta lì ore a disquisire, a pensare, a divagare, a metabolizzare su quanto grande, grave e difficile è questo problema, ma vede il problema, si alza le maniche e dice: ok, da dove partiamo? Una persona con un'attitudine buona da problem solving è una persona che non perde tempo a pensare al problema, ma investe tempo a cercare ogni possibile soluzione. Voglio farti un esempio. Ad un certo punto, Gesù era con i suoi discepoli e venivano da un viaggio, e intorno a lui si erano radunate quasi 10.000 persone. E i discepoli hanno cominciato a dire: Gesù, perché non li mandi a casa? Perché comincia ad essere tardi, no? Conosciamo la storia della moltiplicazione dei pani. E ad un certo punto Gesù, in una delle storie, in una delle versioni, dice, anzi, uno dei discepoli dice: ma come faremo a dare da mangiare a queste persone? Chi c'ha tutti questi soldi? E Gesù gli dice: compratelo voi. Comprate voi qualcosa. E Filippo gli risponde: Gesù, ma non abbiamo soldi, non ci stanno soldi. Pensare al problema. Dobbiamo comprare il cibo, non abbiamo soldi a sufficienza, forse è meglio che le persone tornino a casa, forse è meglio che tutte queste persone non vedano, non restino qui, non abbiano l'opportunità di vedere quanto Gesù è glorioso. Perché? Perché non hanno da mangiare. E arriva così. Giovanni 7. Vi è qui un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci. Indovinate un po', Filippo e i discepoli e Gesù e questo ragazzo hanno visto tutti la stessa cosa. Tutti la stessa cosa. 10.000 persone pronte per mangiare, affamate, senza cibo. Eppure c'è stata una persona che ha detto: oh, la mia merendina! Mia madre me l'ha data quando sono uscita di casa, e se l'avesse cucinata mia madre avrebbe dato da mangiare a tutte quelle persone, perché mia madre ci manda il cibo per migliaia di persone. Ma questo ragazzo aveva 5 pani e 2 pesci. La sua attitudine è stata l'attitudine da problem solving. La sua attitudine l'ha portato a pensare: ehi, io ho una soluzione, ma non lo so, forse è troppo poca, forse è troppo piccola, non lo so, però io ce l'ho nelle mani. E sai che faccio? La metto nelle mani di Gesù. Farà lui qualcosa. E indovinate un po', grazie all'attitudine di quella persona, che significa anche fede, 10 migliaia di persone sono state, hanno mangiato, ma non tanto per il cibo. Hanno visto un miracolo davanti ai loro occhi, il cibo che si moltiplicava e non finiva mai, e fino a quando non è stato super sufficiente. Ecco qui che cosa fa un'attitudine buona. Un'attitudine buona spinge la mano di Dio a compiere miracoli. Amen? Ti piace questo? Sta cominciando a spingere dentro il nostro cuore, nei nostri pensieri. Wow, wow, Sara, che stai dicendo? Lo sai che mentre pregavo per la preparazione di questo messaggio, il Signore mi diceva: Sara, ci saranno persone che ascolteranno questo messaggio, che penseranno che non hanno bisogno di questo messaggio. Se hai pensato che non hai bisogno di questo messaggio, mi dispiace, caro mio, cara mia, hai una cattiva attitudine, te lo devo dire oggi, perché io ce l'ho avuta e io forse ce l'ho ancora tuttora, davanti forse a molti messaggi che vengono predicati o davanti a quel servizio, davanti al gruppo. Che bella l'attitudine di Gianni e Angela, abbiamo fatto di tutto per non mancare mai, questa è una buona attitudine. Che bello, non sono mai mancata all'incontro, ho fatto di tutto per non mancare ai miei gruppi, ho fatto di tutto per non mancare agli incontri, ho fatto di tutto per non mancare a degli appuntamenti che Dio aveva previsto per me, ho fatto di tutto per incontrare i miei fratelli e le mie sorelle. Oh, questo è qualcosa che deve sempre di più prendere spazio nel mio cuore. E se sei qui e stai pensando, Sara, questo messaggio l'ho già sentito, bene, l'hai già sentito, quindi ti voglio dire grazie per la tua attitudine come esempio, ma ti prego, continua a viverlo, continuiamo a viverlo, perché il motto di quest'anno qual è? Andiamo di gloria in gloria. E l'attitudine è qualcosa su cui non possiamo mai dire siamo arrivati, ho una buona attitudine in assoluto, punto, non ho bisogno. Nell'attitudine c'è sempre da poter crescere, ti piace? La seconda, il secondo buon esempio e la seconda buona, il secondo modo in cui un'attitudine buona è generosa con chi è e con cosa. Voglio leggerti un esempio che tutti quanti conosciamo, è della storia della donna peccatrice che ha lavato i piedi di Gesù con il profumo e li ha asciugati con i suoi capelli, in particolar modo Luca 7 verso 36. Ora uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E glieli baciava e li ungeva con l'olio profumato. E al vedere questo, il fariseo che lo ha invitato, disse fra sé, non l'ha detto ad alta voce, eppure Gesù ha conosciuto i suoi pensieri. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e quale genere di persona è chi lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse, io me lo immagino così, Simone, parliamo. Ti devo dare una mega pacca per spiegarti bene. E qui comincia pagliatone mood, cioè da quel momento in poi Simone ha avuto uno degli insegnamenti che ancora rimane per noi. Qual è l'insegnamento che abbiamo da questa storia? Una buona attitudine è generosa. Sai, questa donna ha dato tutto quello che aveva perché era la sua eredità, era quello con cui poteva ancora vivere. Ma non ha badato alle spese, non ha guardato all'investimento, lo ha calcolato bene perché sapeva esattamente il valore di quello che aveva lì dentro. E pur conoscendo perfettamente il valore, non l'ha tenuto per sé, ma lo ha dato. Non solo ha dato quello che aveva, ma si è data. Ascolta un attimo, una donna non invitata, una donna di una pessima fama, non invitata ad un pranzo così religioso, formale, arriva e fa una cosa informalissima ad un uomo che non sapeva neanche quale reazione avrebbe avuto, ma Gesù ha guardato al cuore di questa donna e ha trovato in lei una buona attitudine. Ha fatto una cosa strana, è stata super generosa, si è data e ha dato. Questo è quando una buona attitudine è nel nostro cuore. La buona attitudine è generosa perché valuta le cose del regno più importanti di ogni altra, valuta le cose di Dio, valuta Dio, l'adorarlo, il metterlo al primo posto prima di ogni altra cosa. Questa è una buona attitudine generosa. Ti piace? E Dio sta cercando figli con un'attitudine generosa. Dio sta cercando questi figli. Il terzo modo in cui è una buona attitudine è ammaestrabile. Ti piace questo termine? No. Solo a Pino piace? A nessuno piace questo. Ho cercato la parola ammaestrabile nella Bibbia, non esiste. E mi sono sentita rilassata, ho detto, beh, se non esiste nella Bibbia vuol dire che... Ma non è così, perché la Bibbia parla da tutte le parti della maestrabilità. Voglio darti un esempio. Ad un certo punto c'era Saulo che sta per diventare Paolo in Atti 9 e sta continuando ad ammazzare la Chiesa e ad andare a distruggere il popolo di Israele in qualsiasi parte. Ad un certo punto Gesù lo incontra sulla via di Damasco. Lui è a cavallo, sente una voce e Gesù gli dice questo: ah, Saulo, Saulo, perché ti è duro recancitrare dietro il mio pungolo, bla, bla bla bla. Ad un certo punto lui rimane cieco e non prende cibo per 3 giorni. In quella stessa storia arriva un uomo che non vediamo quasi mai più nella Bibbia. Ora a Damasco, Atti 9, verso 10, c'era un discepolo di nome Anania. E il Signore gli disse in visione: Anania, e gli rispose: eccomi, Signore. E il Signore a lui: alzati, va nella strada chiamata dritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo sentito dire da molti, chiamato Anania, entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Gesù aveva già preparato la via nel cuore di Saulo per Anania, ma Anania non lo sapeva. E senti come risponde a Dio: Signore, ho sentito dire da molti di quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme, e qui ha ricevuto autorità dai capi dei sacerdoti per incatenare tutti coloro che invocano il tuo nome. Aveva paura, era motivato a non andarci. Era lecito non mandare una persona che poteva, non andare da una persona che poteva ucciderti. Lui viveva questo terrore, viveva questa paura, ma senti ora. Il Signore gli disse: va, perché egli è uno strumento che io ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli. Ancora, Anania andò e gli disse, impose le mani e gli disse: fratello Saulo, il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada della quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisisti la vista, e perché tu riacquisti la vista e sia riempito di Spirito Santo. In quello stesso istante caddero dagli occhi come delle squame, recuperò la vista, poi alzato si fu battezzato e cominciò a predicare. Una buona attitudine è un'attitudine ammaestrabile. Dove lo vedi? Dopo che Anania ha detto: Gesù, ma ti sembra il caso di andare da una persona che può uccidermi? Gesù gli dice: ehi, Saulo, ho già fatto tutto io, vai. E Saulo va, e Anania va. Incredibile! Cioè nel suo cuore ha vissuto la paura, il terrore, la voglia di disubbidire, ma alla voce di Dio lui ha risposto: vado. Questa è l'attitudine ammaestrabile. Un cuore ammaestrabile è un cuore sensibile. È un cuore che si lascia ammorbidire da Dio, è un cuore che si lascia cambiare, è un cuore che dice: guai a me se non ho nessuno che mi indichi una strada, guai a me se non ho nessuno che mi rimproveri, guai a me se non ho nessuno che mi faccia crescere, perché rimarrò sempre allo stesso livello. Lo spirito legalista, la cattiva attitudine, grida in noi: guai a te se ti avvicini a dirmi che ho sbagliato. Una buona attitudine, lo spirito ammaestrabile, dice: guai a me se rimango da solo e nessuno mi ammaestra, perché rimarrò allo stesso livello sempre. Lo spirito ammaestrabile, la buona attitudine, dice: io mi voglio circondare di persone che mi dicano le cose che non vanno, perché così posso cambiare. La buona attitudine ammaestrabile dice: voglio imparare, non ho finito di imparare, posso ancora imparare, c'è il P1 sì, c'è il P2 sì, c'è il P3 sì, c'è il P10, ho bisogno ancora di farlo. Perché questa è la buona attitudine, questo è quello che la buona attitudine fa in noi. È sempre pronta ad imparare, è sempre pronta a creare intorno a noi un clima in cui si può cambiare, si può migliorare. Che bello! Io voglio essere così. Oh, io voglio essere così. Io voglio essere così. E questa è una cosa brutta, ma è una cosa stupenda. Perché da una parte c'è la resistenza. Non ti piace che qualcuno ti dica: non va bene, giusto? O piace a tutti quanti. Ma dall'altra parte poi tutto quello che il cambiamento provoca è andare di gloria in gloria. Che bello. Da cosa viene la nostra attitudine? Maxwell dice: l'attitudine è il pennello della nostra mente. Ed è vero, perché la nostra attitudine nasce da quello che c'è nei nostri pensieri, da quello che vive nella nostra mente, da quello che c'è nella nostra profondità, da quello che noi crediamo. Quando guardiamo una persona, io posso guardarla e giudicarla come Simone e spezzarle le gambe, o guardarla e dire: wow, questa persona è straordinaria, questa persona è incredibile, io farò qualcosa di speciale con questa persona. E in Romani c'è scritto questo, Romani 8:6: ciò che brama la carne è morte, ma ciò che brama lo spirito è vita e pace. Sai, la giusta traduzione del verbo bramare è settare la propria mente, è posizionare la propria mente, cioè dire alla mia mente: questa è la carne? Ok, no, io voglio le cose dello spirito. Cioè, Paolo ci sta dicendo in Romani che noi abbiamo la possibilità di scegliere come direzionare i nostri pensieri. Ed è così. Perché l'attitudine viene da te, ma l'attitudine viene da quello che hai dentro. E se tu ti alimenti di quello che è carne, verranno fuori pensieri di morte. Se noi ci alimentiamo di quello che è spirito, verranno da noi pensieri di vita e di pace. E una buona attitudine ha profumo di vita e di pace. Hai mai vissuto quelle stagioni in cui non puoi controllare niente, ti accadono le cose, non sai perché ti accadono, pensi che stanno accadendo tutte a te? Noi, il pastore ha predicato qualche mese fa su questo. E in quei momenti lì, quando non puoi cambiare le circostanze, l'unica cosa su cui possiamo avere controllo è l'attitudine con cui viviamo quelle circostanze. Per me è stato così lo scorso anno, sono accadute una serie innumerevoli di cose che mi hanno fatto dire: ma c'è una nuvola di fantozzi sulla mia testa, ma che sta succedendo? E per un grandissimo parte di questo anno ho avuto un'attitudine sbagliata. Ma perché a me? Ma cosa ho fatto di sbagliato? Ma quindi è colpa mia? Ma quindi è colpa di questo? Ma quindi è Dio che mi sta punendo? Ma Dio mi sta ascoltando? Ma Dio sei con me? Ma Dio non sei con me? Ma perché non sei con me? E poi ad un certo punto ho detto: Signore, tu sei sovrano. Tu sei sovrano. Ho dovuto riconoscere che una buona attitudine è un'attitudine che non interroga Dio su quelle cose che sono sue, perché le cose che sono sue Lui le fa. Ma la buona attitudine si mantiene sottomesso, perché sa che Dio ha il controllo delle cose, che Lui ha il meglio per noi, che Lui ha il meglio per me, che Lui non mi lascia da solo, come abbiamo sentito nel deserto. Ecco perché io posso affrontarlo bene. E allora possiamo essere allegri nella speranza e costanti nella tribolazione, gioiosi quando vi venite a trovare in una serie di prove allucinanti, perché è la nostra attitudine che fa da maestra. È il nostro cuore. E da dove viene il nostro cuore? Viene dal fatto che siamo posizionati sulla carne o sullo spirito. Quando ti dirigi verso la carne, allora pensa a tutte le storie che abbiamo sentito. Filippo dice: dove prenderemo i soldi? Mandali via. E Simone dice: ma tu guarda questa che irrompe nella mia casa e viene e spreca tutto quest'olio. E non so, chiunque altro poteva non andare a fare quello che Dio ha detto. Una buona attitudine, un'attitudine che è settata, che è impostata nello spirito, è l'attitudine del ragazzo con 5 pani e 2 pesci, è l'attitudine della donna che unge i piedi di Gesù, è l'attitudine di Anania, perché è problem solving, perché è generosa e perché è ammaestrabile. Ti piace questo? Sì? Noi possiamo migliorare la nostra vita e quella delle persone intorno a noi attraverso la nostra attitudine. Perché quando abbiamo una buona attitudine, gli altri vorranno stare con noi. Quando abbiamo una cattiva attitudine, gli altri scapperanno da noi. E quindi bada alla tua attitudine. Non lasciare che capiti casualmente, non lasciare che domani mattina mi sveglio e chissà come sarà la mia attitudine. Bah, dipende da com'è il caffè. Se è venuto bene, avrò una buona attitudine. Se è venuto male, avrò una cattiva attitudine. Mentre venivo, dovevo predicare. E sai una cosa? Incidente in tangenziale. Oh, ero in ritardo, incidente in tangenziale. Ho dovuto scegliere la mia mente sulle cose della carne, quindi mi arrabbio, sono in tensione, mamma mia, ma chi è? Nello spirito. Ok, sei in macchina. Sei bloccata, non puoi fare niente, adora e prega, ed è sempre lì dove è settata la mia mente. E combattiamo, possiamo combattere sempre, ma quando combattiamo vuol dire che possiamo scegliere. Paolo ha dei consigli per come migliorare la nostra attitudine. Vuoi sentirli? Vuoi migliorare la tua attitudine? O siamo tutti a posto? Ma me ne vado allora. Io voglio migliorare la mia attitudine. E Paolo ad un certo punto in Filippesi scrive, finisce la sua lettera, la conosciamo molto bene, in un modo straordinario, però guardiamo bene a quei consigli che possono cambiare la nostra attitudine. Filippesi 4, lo conosciamo, sì? Rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non preoccupatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamento. Questa è una buona attitudine. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, ascolta ora, tutte le cose vere, le cose onorevoli, tutte le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, quelle siano oggetto dei vostri pensieri. E le cose che avete imparato da me, ricevute e udite da me, viste in me, fatele. Come possiamo migliorare la nostra attitudine? Rallegratevi sempre nel Signore. Lo ripeto, rallegratevi. Celebra Dio. Celebra Dio in qualsiasi stagione, in qualsiasi cosa. Prendi la gioia come stile di vita. Il motto della nostra famiglia per quest'anno è: noi, il Signore ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. E non abbiamo gioia, ci sentiamo gioiosi, oggi ci sentiamo meno gioiosi. No, noi siamo nella gioia. Vuol dire che abbiamo messo i piedi nella gioia. Rallegratevi del continuo nel Signore, lo ripeto, rallegratevi, è stare nella gioia, stare nella celebrazione. Così la tua casa non diventa una celebrazione di problemi fisici, difficoltà economiche, il tempo che non va e piove e fa caldo e fa freddo e fa tiepido, ma la tua casa diventa un culto, perché diventa un luogo di celebrazione continua di Dio. Va bene se è rotto il frigorifero, io celebro Dio. Va bene il frigorifero, io celebro Dio. Questo è, celebra Dio di continuo. Questo crea in noi una buona attitudine. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Che cosa vuol dire? La nostra pazienza, il nostro buon cuore sia visibile agli altri. Sai quando noi diventiamo mansueti e gli altri lo possono riconoscere? Quando noi diamo valore agli altri, quando tu hai pazienza con gli altri perché tu vuoi aspettare il suo percorso, no? E tu, qualcuno ha avuto pazienza con te, tu ce l'hai con gli altri, perché tu dai un valore agli altri. Maxwell dice proprio: metti un 10 sulla spalla di ogni persona, metti un 10, il massimo del valore, sulla vita di ogni persona che conosci. Questo crea in noi una buona attitudine. Non preoccupatevi di nulla. Oh, questo ho detto all'inizio? L'attitudine è la cura per l'ansia, giusto? O prendi un ansiolitico, che ormai te lo affidano come acqua, e io sono e mi scaglio contro tutti i medici curanti che quando vai a dirgli non riesco a dormire, la prima cosa che fanno è darci un ansiolitico. Non lo prendere. Sai una cosa? Non preoccuparti di nulla, ma prega. Sono una psicologa, so quello che sto per dire. Quelle pillole, quelle gocce, tranne se tu non le stai prendendo per una malattia specifica, ma se non puoi dormire, ma se ti metti a letto i pensieri cominciano a girare, ehi fratello, sorella, amico, amica, adora. Quante notti insonne, quante notti in cui non posso dormire bene, quello è il tempo in cui Satana vuole togliermi il valore dell'adorazione della mia vita. Io me ne voglio appropriare, perché mi alzo e prego, mi alzo e adoro, sono sul letto, allora prendo la Bibbia e leggo e comincio a pensare alle cose che Dio ha fatto per me. Non preoccupatevi di nulla, ma fate conoscere tutto a Dio. Hai mai visto che mentre preghi e abbandoni ogni ansia, ogni preoccupazione, le spalle cominciano a scendere? E sai cosa? L'attitudine buona è una cura anche per le ernie, è una cura anche per l'ipertensione e per l'ipotensione. Non dimentichiamoci di dare a Dio le nostre preoccupazioni. Ti piace? E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Custodirà, proteggerà. È la pace di Dio che ci protegge. È la pace di Dio che ci protegge. Quindi, fratelli, le cose vere, le cose onorevoli, le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, quelle in cui vi è qualche virtù e qualche lode, quelle siano al centro dei vostri pensieri. E indovina un po', quello che ti porta gastrite, quello che ti fa venire un tumore, quello che ti provoca un licenziamento, quello che ti costringe ad un conflitto, quello che ti porta sulla via del divorzio, sono cose buone? Sono cose onorevoli? Sono cose pure? Sono cose in cui c'è qualche virtù? Sono queste le cose che ci portano verso, queste cose ci portano verso le soluzioni. Le cose vere, onorevoli, buone, in cui vi è qualche virtù, quelle cose ci portano verso Cristo. Amen? E le cose che avete imparate, ricevute, udite e viste in me, fatele. Rimani ammaestrabile. Rimani pronto ad essere cambiato. Rimani pronto ad andare di gloria in gloria. Rimani pronto al fatto che Dio ha per te ancora un territorio da conquistare. Dio ha ancora una nuova gara per te. La settimana scorsa, 2 settimane fa, quando abbiamo pregato per tutti i capigruppi, c'erano qui davanti, voglio onorarli, Rosa e Paolo Altamura, che sono 2 servi straordinari, sono 2 persone che mi hanno insegnato e mi insegnano ancora l'attitudine buona. Paolo ha sistemato tutta questa parete da solo, 2 settimane fa, ha ripittato tutta la sala da solo. Sapete perché non lo sappiamo? Perché ha una buona attitudine e non lo dice, ma lo fa. Che bello. Ed erano qui loro, che sono qui da anni, e hanno, loro sono stati parte del mio percorso. Che bello questo. Rimani ammaestrabile. Loro erano qui, possono loro pregare per me, sono certa che loro pregano per me, ma ero lì a dover pregare con loro. È stato un onore poter pregare con loro. Perché? Perché vedere una coppia così, con così tanta esperienza, essere ancora qui a ricevere benedizione per ministrare agli altri, questo è rimanere ammaestrabili. Questo è rimanere pronti, questo è andare di gloria in gloria. Noi veniamo da una cultura, e con questo concludo, in cui la nostra cultura ci porta a dire: beh, l'importante è che l'ho fatto, tanto il Signore lo sa il mio cuore, se l'ho fatto male non fa niente, tanto Dio lo sa veramente. La buona attitudine è: ehi, fai bene, ma fallo anche con una buona attitudine. Ma perché devi fare quella cosa male? La devi fare per forza. Falla con una buona attitudine, perché quando facciamo le cose con una buona attitudine profumiamo. E quando siamo in piazza a predicare Gesù a maggio, e quando andiamo in piazza a fare il concerto, e quando inviteremo per domenica prossima la festa del papà, sai che le persone sentiranno il tuo odore, sentiranno il mio odore. E se profumiamo, le stiamo attirando con il profumo di Cristo. Ma se puzziamo, non ci seguiranno. Allora oggi abbiamo l'opportunità di cambiare la nostra attitudine. Da quando lasciamo questo posto, da mentre lasciamo questo posto, possiamo passare dai bagni e pensare: ma che schifo. Oppure dire: ehi, forse c'è qualcosa che non va, magari do il mio nome ad Elisa per entrare nella Servolution. Questa è la stessa cosa con un'altra attitudine. E sai una cosa, Chiesa? Io voglio diventare un esempio di attitudine. Io voglio diventare un esempio in questo. Se c'è una cosa in cui non voglio, in cui che Gesù mi dica: Sara, vieni, ti devo spiegare un paio di cose. Questa è l'attitudine. Oh, io voglio essere come quel giovane ragazzo che ha trovato un problema, che ha visto un problema, ma che ha trovato una soluzione. La nostra Chiesa va di gloria in gloria quando noi abbiamo questa buona attitudine. Amen? Vogliamo alzarci in piedi? Che brutto messaggio. Wow. È buono, dice qualcuno. È buono! sempre. Dio è buono, non il messaggio alpino, Dio è buono sempre. Ah, amè. Che brutto messaggio. Io voglio crescere. Chi vuole crescere con me può oggi fare veramente una scelta di crescere nell'attitudine e dire: Signore, perdonami. Gesù, perdonami per la cattiva attitudine che ho avuto. E possiamo pregare ora insieme, Chiesa. Se hai bisogno proprio di tornare indietro, di tornare indietro sulla tua attitudine, presentati ora a Dio. Gesù, io ti prego di perdonare il mio cuore quando c'è stato orgoglio, quando c'è stata tristezza, quando non ho guardato le altre persone, le situazioni così come tu avresti voluto, quando non ho valorizzato gli altri come tu avresti fatto. Gesù, grazie per il tuo esempio straordinario di venire sulla terra per servire. E Gesù, io voglio essere come te. Oh Gesù, io voglio essere come te. Io voglio essere come te, Gesù. Tu sei l'esempio straordinario. Tu sei l'esempio più bello. Tu sei l'esempio incredibile. Noi vogliamo essere come te, Signore. Vogliamo essere come te. Se anche tu stasera vuoi dire: Gesù, Signore, io voglio essere come te, per favore alza le tue mani. Alza le tue mani ora. Comincia a pregare. Signore, io voglio essere come te. Insegnami il tuo cuore. Insegnami la tua attitudine. Insegnami i tuoi pensieri. Io posiziono la mia mente nelle cose tue. Posiziono la mia mente nelle cose buone, nelle cose buone, nelle cose buone che tu hai preparato, nelle cose buone che tu hai fatto, nelle cose buone che tu vedi, nelle cose buone che tu dichiari, nelle cose buone che tu hai per gli altri, nelle cose buone che tu hai per me. Gesù, io voglio mettere la mia mente in quelle cose e voglio strappare lo spazio di tutte le cose che non appartengono a te per ridare a te ogni priorità. Gesù, io ti prego in questo momento di tagliare ogni autorità delle cose brutte, delle cose ansiogene, delle cose deprimenti, delle cose che ci fanno paura, delle cose che ci terrorizzano, delle brutte abitudini, delle cattive amicizie che ci portano sulle strade sbagliate. Nel tuo nome, Gesù, spezza in questo momento. Spezza in questo momento, Signore Gesù, affinché in noi ci possa essere quell'attitudine che viene da te, che innalza gli altri, che guarda gli altri come le guarderesti tu. Nel tuo nome, Gesù.